diamo la parola per ascoltare i sinodi della sinodalità, cosa hanno fatto, detto a proposito del futuro. Caro Ambrogio, tocca a te. Per i pochi che non sanno che i sinodi dei vescovi vengono sintetizzati da padre Caprile, dirò che questo gesuita ha scritto sempre e solamente a proposito dei sinodi almeno una quindicina di volumi di 700-800 pagine cada uno, quindi sono circa 15.000 pagine che occorrerebbe almeno sfogliare, no, per... Ha fatto tutto il concilio, lo stesso per il concilio. E prima ancora l'ha fatto tutto per il concilio. È morto, qualche mese fa, lo ricordiamo, un grande uomo. Sì. Chi volesse conoscere il concilio, i sinodi, basta che legga padre Caprile e ha in mano tutto. Solo che per leggere 15.000 pagine... Ma piuttosto di leggere tutto il sinodo... Certo, dirò che solo... La stima per l'istituto e l'amicizia per i responsabili mi hanno convinto ad accettare questa fatica. Ma questo spiega anche il motivo della sostanziale descrizione di questa mia comunicazione. Se ho ben compreso, si tratta innanzitutto di rispondere a un quesito: se nei sinodi dei vescovi è presente la sfida del futuro e come si presenta, in caso di risposta affermativa, lo scenario futurologico. E vediamo di rispondere a questi due quesiti. Compirà il Sinodo 30 anni l'anno prossimo, nel 95, 30 anni dalla sua istituzione voluta, decisa da Paolo VI su suggerimento del Concilio Vaticano II. È opinione diffusa che il Sinodo dei Vescovi, frutto del Concilio, sia diventato l'organismo ecclesiale che con le sue assemblee, con la sinodalità, ha mantenuto vivi tutti i benefici dell'esperienza conciliare. E nello stesso tempo, pur nel riconoscimento delle indubbie difficoltà, sia dal punto di vista di organizzazione come anche dal punto di vista procedurale, nonostante appunto questi limiti, i sinodi hanno indicato, attraverso appunto la collaborazione collegiale, le linee della direttive della presenza della Chiesa nel mondo, nella società, nella cultura e quindi anche le linee direttive dell'agire della Chiesa nella storia. Dice il Cardinal Tomko, che fu appunto segretario generale del Sinodo anni addietro, che le assemblee del Sinodo sono come la lente o come il prisma che riceve e concentra la luce solare, quella proveniente dal Concilio, e poi la rifrange e diffrange nell'intero spettro di tonalità e di colori, prendendo in esame le singole componenti di quella sorgente luminosa. E anche nei temi affrontati, liturgia, collegialità, sacerdozio, laici, giustizia sociale, catechesi, evangelizzazione, matrimonio, famiglia, riconciliazione, penitenza, eccetera, eccetera, anche nei temi i sinodi manifestano il loro radicarsi nel Concilio Vaticano II. Quindi in qualche modo vogliono essere e sono memoria viva dell'evento conciliare, ma sono anche interpretazione e dunque sviluppo del Concilio stesso. E questo viene espresso efficacemente da Giovanni Paolo II, il quale afferma: la chiave sinodale di lettura del Concilio è diventata quasi un luogo di interpretazione, di applicazione e di sviluppo del Vaticano stesso. Quindi c'è questo intreccio, memoria, interpretazione, sviluppo, e proprio credo da questo intreccio sia possibile fare emergere dai sinodi dei vescovi alcune sfide che caratterizzano il presente ma che riguardano anche il domani della Chiesa, il terzo millennio dopo Cristo. Ecco, ci sembra che ci sia questo duplice sguardo da tenere sempre presente anche da un punto di vista metodologico, lo sguardo, diciamo, al passato, anche se si tratta di un passato prossimo, ovvero sia lo sguardo appunto al concilio rivolto in qualche modo all'indietro, ma anche contemporaneamente uno sguardo rivolto al presente, alla congiuntura e anche ai problemi che vanno al di là della congiuntura. Se si dovesse fare un'analisi diacronica dei sinodi, si potrebbe evidenziare il passaggio da una fase, diciamo, più applicativa e interpretativa dei temi conciliari, ove lo sguardo è in qualche modo rivolto più all'indietro, ad una fase invece di sviluppo delle tematiche conciliari, quindi con uno sguardo più proiettato verso l'oggi, verso il domani. Una evoluzione in qualche modo ovvia, che tuttavia non smentisce l'origine conciliare dei sinodi dei vescovi. Anche per questo sguardo rivolto all'evento conciliare, connesso alla origine stessa dei sinodi, non sarebbe corretto attendersi da questi sinodi la prospettazione di scenari di futuro in qualche modo non già previsti dal Concilio Vaticano II. Certo, ci possono essere interventi all'interno delle assemblee che in modo esplicito, in modo diretto, manifestano l'intendimento futurologico con una prognosi del presente e anche con proiezione nel futuro delle tendenze già in atto. Ci sono questi interventi, ne cito uno di un vescovo italiano, Monsignor Tonini, alla 17ª Congregazione Generale del Sinodo del 1987. Egli afferma che l'intera Chiesa deve predisporsi alla nuova era e il Sinodo ve la sospinge con vigore, trattava dei laici il Sinodo. Quale prospettiva, qual è e dov'è la posta in gioco? E allora Monsignor Tonini prospetta alcuni temi che riguardano in particolare il compito dei laici, la loro missione, ma che interessano la Chiesa tutta. E dice anche, forse neppure ai suoi inizi la Chiesa si è presentata al mondo come segno di una salvezza così drammaticamente globale e primordiale, e apparirà allora come sorte umana e Vangelo. Civiltà e Chiesa sono intimamente legati fra loro. E i temi prospettici suggeriti da Monsignor Tonini sono questi: la mondializzazione di tutte le realtà, l'interdipendenza dei popoli, quindi qui la creatività personale, l'inventiva, eccetera. Secondo tema, la grande sfida etica, e poi si sofferma soprattutto sui problemi delicati della bioetica, ma diciamo sfida etica nel senso e nel modo di concepire l'uomo, la famiglia, la stessa relazionalità. Infine, terzo tema prospettico, indicato da Monsignor Tonini, la islamizzazione dell'Europa, se continua l'attuale calo di natalità e, dice, parla anche di uno studio effettuato dalla Sorbona a proposito della Germania. Conclude il suo intervento invitando il Sinodo a dare opportuno risalto alla prospettiva storica del terzo millennio e alle sfide che lo attendono. Ma al di là di questi cenni, peraltro interessanti e meritevoli anche di approfondimento, i sinodi non hanno esplicitamente prospettato scenari futurologici, hanno discusso temi e problemi che riguardano e riguarderanno la missione della Chiesa. Però appunto in questa articolazione di cui abbiamo detto, memoria, interpretazione, sviluppo, è possibile intravedere un progetto che può dunque prefigurare l'agire della Chiesa nel prossimo futuro, con le sfide che sono insite all'interno di questo progetto, ma anche forse con la indicazione di atteggiamenti necessari per svolgere l'azione pastorale nel prossimo futuro. Ecco, io piuttosto che approntare un indice di questi temi, di queste sfide, Cercherò di cogliere il problema centrale, se sono riuscito a coglierlo, una tematica in qualche modo originaria, attorno alla quale ruotano i diversi problemi, le diverse riflessioni, le diverse proposte anche che vengono suggerite. Preferisco correre il rischio di una schematizzazione piuttosto che disperdermi in tanti rivoli. E allora l'intento di questo progetto, mi pare che sia chiaro, l'intento è e non può che essere quello della evangelizzazione. Non potrebbe essere diversamente, poiché questa è la missione della Chiesa in ogni tempo, in ogni luogo. Ma al di là della ovvietà della sfida della evangelizzazione, che insita nel compito primario e di sempre della Chiesa, l'interrogativo fondamentale dei sinodi e dei vescovi concerne il come della evangelizzazione, in rapporto alle esigenze concrete, sia in riferimento alla sociocultura, diciamo, secolarizzata dell'Occidente, come anche rispetto alle socioculture dei cosiddetti paesi in via di sviluppo. Ma mi pare, grosso modo, il Concilio Vaticano II si interrogasse anch'esso sul come, ma desse per scontato il che cosa della evangelizzazione, nei sinodi dei vescovi il problema circa il come diventa anche il problema circa il che cosa della evangelizzazione, quindi anche circa i contenuti stessi, non più assodati, non più sicuri, non più garantiti. Quindi mi pare di intravedere un intreccio tra il come e il che cosa, tra il metodo e le modalità e i contenuti stessi dell'evangelizzazione. E questo intreccio mi pare che sia ravvisabile fin dai primi sinodi. Ad esempio, partendo dal documento finale del sinodo del 71, relativo alla giustizia sociale e giustizia nel mondo, il padre Chenu, che valuta un grande testo, quel documento pubblicato appunto alla conclusione di questo sinodo, dice: l'evangelizzazione deve innestarsi nella liberazione, nella promozione dell'uomo, perché è tutto l'uomo, corpo ed anima, sono tutti gli uomini riuniti in molteplici società che devono essere salvati secondo le esigenze della giustizia. Ma proprio su questo tema centrale della evangelizzazione, l'Assemblea Sinodale del 74 ha manifestato la difficoltà di fornire una risposta precisa a quell'intreccio di come e che cosa. Credo che non sia esagerato affermare che il Sinodo del 74, per la diversità di opinioni e di posizioni sul tema della evangelizzazione, è risultato un sinodo bloccato, oltre che un sinodo spaccato, lacerato. I padri sinodali hanno rinviato al Papa la soluzione da cui la Evangelii Nuntiandi, e da qui, se non andiamo errati, la prassi di lasciare ormai sempre al Papa il compito di elaborare l'esortazione post-sinodale. Ma da qui credo anche, ecco il senso di quel purtroppo, la tendenza a relativizzare il dibattito sinodale e i suggerimenti conclusivi del sinodo stesso. Tra l'altro credo che sia, da un punto anche di vista di metodo, di esegesi, no, dei testi, è difficile distinguere a questo punto tra il testo stesso, il dibattito e la conclusione del dibattito e l'esortazione apostolica. Curiosamente, sempre nel 1974, il missionologo Bülham lanciava l'ipotesi della terza chiesa, che diventa poi progressivamente realtà, questa terza chiesa, non più solamente ipotesi, almeno a livello statistico. Mentre all'inizio del secolo XX, asseriva appunto in quel libro intitolato La Terza Chiesa Bulam, l'85% dei cattolici viveva in Occidente, per il 2000 non siamo molto distanti, solo il 30% dei cattolici apparterrà all'Occidente, all'Europa e all'America settentrionale. In modo diretto, sia per la riflessione come anche per la presenza dei padri sinodali provenienti dal terzo mondo, questo spostamento del baricentro del cristianesimo presso i popoli del cosiddetto terzo mondo, comportante quindi in qualche modo anche la rinuncia